strada si aggroviglia nei tuoi capelli, i lampioni che esplodono come fanali nei tuoi occhi, hai il cuore che sa di asfalto e di preghiere, e le macchine ti attraversano senza più guardare, e sciogliti i capelli del fango solo se ci riesci, e allacciami i tuoi dubbi alle scarpe se poi tu non mi credi. Se non mi credi, il cielo lo reggono ancora i miei difetti, le mani si incastrano e formano grattacieli, le scuse attaccale bene così non cadi, le unghie affilate resistono tagliando i vetri, e asciugami i pensieri col fiato degli ultimi alberi, e accendimi di notte le insegne dei più veri corpi, concedimi la pace dei treni senza più rimorchi, e puntami negli occhi come un tram a fari spenti, investimi di luce se non mi vedi ancora in piedi. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, e mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quanto è voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città. Le case che aprono le gambe agli sconosciuti, e le chiese sono bocche di donne coi fucili appesi, le fabbriche sono vecchi indiani che fanno segni, il fumo porta via con sé gli ultimi avanzi, nascondimi dagli altri, son troppo comodi i tuoi denti, e sputami poi fuori quando stenderai i tuoi panni, e lavami nel fiume se vorrai ancora indossarmi, e rimboccami le maniche quando pioverà dei muri, e soffiami sul mondo come quasi fossi vento. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quando è voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei tu la mia città che si colora quando è sera, dentro i vicoli sei nere, ti ricordi solo allora della tua vera natura, ed hai bisogno un po' di me per sentirti meno sola, per sentirti una città che resta sempre ancora accesa. Sei tu la mia città, sei tu la mia città che mi spaventa quando è sera, e mi addormenta la mattina e mi ricorda di essere tanti, uno solo in mezzo a tanti, quando è voglia di sentire addosso il brivido degli altri, perché tu sei la città, sei sempre e solo la città che si colora quando è sera, mentre i vicoli sei neri e ti ricordi solo allora della tua vera natura, ed hai bisogno un po' di me per sentirti meno sola, per sentirti una città che resta sempre ancora accesa. Sei tu la mia città, sei tu la mia città, sei tu la mia città.